TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Investimento mortale, una 17enne travolta e uccisa a Precenicco, stava andando a scuola, comunità attonita. Incidenti stradali in aumento in regione, 12 feriti in media ogni giorno, il trend negativo opposto a quello nazionale. Aggressioni ai sanitari all'ospedale di Lattisana, percosse con violenza due infermiere, già implementata la sorveglianza. 62 anni fa il disastro del Vajont con i suoi oltre 1900 morti, videomessaggio della Presidente dell'Europarlamento. Barcolana e alberghi, prezzi in linea con l'altissima stagione ma senza eccessi, le stanze rimaste dai 300 euro a notte. Al Festival del Cinema Muto di Pordenone in anteprima mondiale un Charlie Chaplin restaurato dal MoMA di New York. Sono le 12:31 minuti, buongiorno da Andrei Marusic. Come avete sentito dai titoli, apriamo purtroppo con la cronaca questa edizione del giornale radio. Alice Morsanutto era appena uscita di casa a Precenicco per andare a scuola, stava attraversando la strada quando è stata travolta da una monovolume che sopraggiungeva. La tragedia della giovane vita spezzata, Alice aveva solo 17 anni, ha lasciato attonita l'intera comunità, così come insegnanti e docenti del liceo Sello di Udine, frequentato dalla ragazzina. Purtroppo il servizio non è ancora pronto, ma la nostra regione è fra le più pericolose d'Italia per numero di incidenti stradali in rapporto alla popolazione. Vittime spesso i giovani al volante e gli anziani pedoni. Nel confronto con l'anno scorso tutti gli indici sono in crescita, al contrario della media nazionale, dove i dati restano stabili. Arriva la notifica, basta un secondo di distrazione spesso per trasformare un viaggio in tragedia. Nel 2024 in Friuli Venezia Giulia gli incidenti dovuti alla distrazione, in particolare all'uso del cellulare al volante, continuano a crescere insieme ai numeri generali dell'incidentalità stradale. Secondo i dati ACI e Istat, lo scorso anno in regione si sono contati 3.228 incidenti con 73 vittime e 4.275 feriti, come dire 9 incidenti e 12 persone ferite di media ogni giorno. Tutti dati in aumento rispetto al 2023, quando gli incidenti erano stati poco sotto quota 3.000 e i morti una sessantina. Un trend opposto a quello della media italiana, dove tutti gli indici sono stazionari o in diminuzione. Le vittime sono per la maggior parte donne. La probabilità che una persona venga uccisa o ferita in un incidente stradale è molto più alta in Friuli Venezia Giulia che non in grandi regioni come Lombardia o Campania. La distrazione insieme a velocità e mancato rispetto delle precedenze sono tra le principali cause. Le strade urbane continuano a essere quelle più rischiose. Oltre 2/3 dei sinistri avvengono nei centri abitati. Un incidente urbano su 3 si verifica a Trieste, dove i numeri rispecchiano l'andamento regionale. Incidenti e feriti in aumento anche per effetto del traffico più intenso e della distrazione crescente, soprattutto nei tratti a scorrimento veloce. In Friuli Venezia Giulia sono le strade extraurbane a registrare però gli incidenti più gravi e mortali. Le vittime sono soprattutto giovani conducenti sotto i 34 anni, spesso per eccesso di velocità, e anziani pedoni, le categorie più vulnerabili. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuova aggressione al personale sanitario, un paziente di 78 anni ricoverato all'ospedale di Lattisana nel reparto di medicina per problematiche di tipo chirurgico ha colpito violentemente due infermiere. Una è stata trascinata per i capelli e colpita alla testa con il palo della flebo, mentre l'altra, intervenuta in difesa della collega, è stata colpita al volto, coinvolte nell'aggressione anche due OS. Solo grazie all'aiuto di altri operatori è stato possibile poi bloccare l'aggressore, che aveva anche distrutto i telefoni del reparto. Le due infermiere sono state medicate al pronto soccorso e sono in attesa di prognosi. L'episodio è stato confermato dal direttore generale di ASO-FC, Dennis Caporale, che ha fatto sapere che l'azienda ha già implementato le ronde dei servizi di sorveglianza privata anche alla Tisana. La UIL, Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia, esprimendo solidarietà alle due infermiere, ha definito l'accaduto inaccettabile e chiede l'istituzione di un presidio fisso di polizia. Il sindacato pone inoltre nuovamente in primo piano denunciano la grave carenza di personale nel presidio ospedaliero di Latisana e l'assenza di adeguate misure di sicurezza che espongono gli operatori a rischi elevatissimi durante i turni. Secondo i dati del centro d'ascolto della UIL, nel primo semestre dell'anno sono state quasi 300 le segnalazioni di aggressione al personale medico, il 20% in più rispetto all'anno scorso. L'episodio segue l'aggressione al CUP dell'ospedale di Udine di luglio e quello nel pronto soccorso dello stesso ospedale ad agosto, in cui l'aggressore ha danneggiato arredi e poi ha colpito due infermieri. E torniamo alla notizia d'apertura, l'incidente mortale di Precenicco che ha visto coinvolta la 17enne che stava attraversando la strada quando è stata travolta da una monovolume che sopraggiungeva il servizio. Doveva prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Alice Morsanutto è stata investita da una monovolume sulla strada statale che da Palazzolo dello Stella porta a Precenicco. È successo poco prima delle 6:30 di questa mattina. Le strisce pedonali a pochi metri dall'impatto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. A Udine frequentava il liceo artistico Sello. Io ho ricordi di lei che la vedeva passare anche col cane. Che passava, dopo alla mattina andava a scuola col zaino, sempre di là, sulla pista ciclabile e la cabina, subito davanti alla cabina e purtroppo questo qua, qui è una strada che vanno, non vanno 50, nessuno non va a 50, minimo qua 80, 100, 120, ce ne sono delle moto qua che passano, non solo le moto, anche le macchine. Che non li arrivi neanche a vederle a passare. Il padre, nella casa a pochi metri dal tragico incidente, è uscito quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e il rumore dell'elisoccorso mentre i sanitari stavano cercando di rianimare la figlia. Subito dopo è arrivata anche la madre di Alice, che era uscita di casa poco prima per andare al lavoro. Il fratello gemello di Alice aveva appena preso un'altra corriera per andare a scuola. Precenicco, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E voltiamo pagina, sono passati 62 anni dal disastro del Vajont, oggi le cerimonie di commemorazione con un messaggio inviato dalla Presidente dell'Europarlamento Metsola, il servizio di Nicola Accardo della redazione della TGR Veneto. Quella del Vajont è una tragedia che non deve rimanere soltanto sui libri di scuola, è una ferita aperta da cui imparare per non ripetere gli errori del passato. Così la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, nel videomessaggio proiettato all'ingresso del coronamento della diga, dove si è appena conclusa la messa per il 62esimo anniversario della catastrofe. Un messaggio che verrà riascoltato anche nel pomeriggio alle 15 al cimitero monumentale di Fortogna, dove poggiano 1910 cippi bianchi a ricordo delle vittime. Dobbiamo continuare a trarre insegnamento da questo dramma, ha detto Metsola, inserendo la sicurezza pubblica, la tutela del territorio, la competenza scientifica in ogni decisione, perché non possiamo permettere che una catastrofe simile colpisca di nuovo l'Europa. Nella notte del 9 ottobre del 1963 bastarono 4 minuti alle onde provocate dalla frana del Monte Toc per cancellare un'intera valle. I sopravvissuti di Erto, Casso e Longarone si sono raccolti davanti alla diga nel solito silenzio solenne. Per continuare a costruire una memoria comune, la regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto di entrare come socia nella Fondazione Vajont. È la novità di questo anniversario annunciata dal sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Una corona di fiori verrà deposta in 3 luoghi simbolo: alla chiesetta di Pirago, scampata al disastro, in località Vajont, dove sorgeva la cartiera spazzata via dall'acqua, e a Villa Malcolm, dove morirono tante persone provenienti da Riese Pio X. Dalla diga del Vajont, Nicola Accardo, TGR Veneto. Assestamento di bilancio della regione Friuli Venezia Giulia che sfiora i 277 milioni di euro, fetta più grossa alla sanità, 3 milioni invece per l'abbattimento delle rette degli asili. Le mezze stagioni non ci saranno più, ma gli assestamenti stagionali di bilancio godono ancora di ottima salute. E così via alla discussione in Consiglio regionale della manovrina autunnale. 276 milioni 900 mila euro di risorse aggiuntive di natura tributaria da iscrivere a bilancio, le quali, sommate alla manovra estiva, valgono 1,5 miliardi di euro. Oggi e domani i lavori, prima la discussione, quindi il voto. La parte del leone la fa il capitolo sociosanitario, con investimenti previsti per 75 milioni di euro, altri 12 milioni in trasferimenti per la spesa sanitaria per misure assicurative. Oltre 50 milioni sono destinati al fondo di rotazione per l'accesso al credito delle attività produttive, 10 milioni all'organismo pagatore regionale per interventi nel settore agricolo, 5 milioni per agevolazioni sui carburanti, 3 milioni per l'abbattimento rette degli asili nido, 2 milioni come contributi agli enti locali, altrettanti per le attività di protezione civile. Ma all'analisi dell'Aula saranno sottoposti anche emendamenti già presentati in commissione dalla Giunta regionale per complessivi 60 milioni di euro destinati a interventi di messa in sicurezza delle scuole, alle reti viarie, alla valorizzazione dei consorzi industriali, all'agricoltura e all'urbanizzazione civile. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Remazel, società del gruppo Fincantieri, ha firmato un contratto con la belga Jean de Nul, società leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria marittima e offshore, per la fornitura di equipaggiamento destinato ad una nave di nuova costruzione. Il contratto prevede nello specifico la progettazione e la fornitura di un sistema avanzato per il trasporto e la posa di rocce sul fondale marino destinato alla protezione di cavi e oleodotti. La soluzione sviluppata da Remazel consentirà operazioni fino a 400 metri di profondità e una capacità produttiva di 2.000 tonnellate l'ora. L'intesa rappresenta un ulteriore passo nella strategia del gruppo Fincantieri, posizionandolo come partner tecnologico di riferimento nella protezione delle infrastrutture subacquee, ambito sempre più strategico nel contesto geopolitico globale. E una nuova manifestazione per Gaza si è svolta ieri sera a Trieste con la partecipazione di circa 200 persone. Durante il corteo, secondo quanto riportato dal portale Trieste Prima, si è verificata un'aggressione ai danni di un loro collaboratore, Riccardo Lazzari. Due manifestanti, un uomo e una donna, gli hanno sottratto il telefono e lo hanno lanciato a una ventina di metri, rendendolo inutilizzabile. L'episodio segue altre aggressioni avvenute la scorsa settimana ai danni di un operatore della nostra testata e di un fotografo del Primorsky Dnevnik. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi, parla di una crescente insofferenza verso l'informazione e chiede provvedimenti severi e rapidi. Per la Barcolana sono molti gli appassionati di vela e non solo che stanno arrivando a Trieste, prezzi in linea con l'altissima stagione negli hotel ma senza eccessi. A garantirlo è Federalberghi. Sui siti di prenotazione le poche stanze rimaste partono dai 300 euro a notte. Nessun effetto Robbie Williams, nessuna stanza, almeno tra quelle alberghiere, con prezzi fuori scala. Dopo le polemiche del concerto estivo della pop star inglese, con alcune stanze vendute anche al triplo del prezzo dell'alta stagione, la Barcolana riempie come al solito tutte le strutture ma senza eccessi. Le poche stanze disponibili negli alberghi con posto sui portali dedicati si trovano ancora a prezzi abbordabili. Sulle due notti, venerdì e sabato, anche 550 euro per una doppia in 4 stelle. Sulla notte singola del sabato dai 300 ai 500 euro. Non alla portata di tutti, certamente, ma inferiori alle speculazioni che avevano fatto arrabbiare la regione. Maurizio Giudici, presidente Federalberghi. Fortunatamente è rimasto poco, abbiamo un'ottima saturazione, registriamo tra venerdì e sabato un incremento ulteriore, viaggiamo tra l'87% del venerdì e addirittura il 94% del sabato. Sentiamo ancora una buona pressione di mercato su queste date, il che fa pensare che arriveremo al sold out certo per la giornata clou dell'evento importante Barcolana. Il valore camera è coerente rispetto a altri momenti di picco della città, come può essere Pasqua o Ferragosto, e non ha eccessi ed è assolutamente coerente e ben calibrata sul periodo e sull'evento Barcolana, che è un evento ovviamente importante. Discorso diverso per l'extraalberghiero, ovvero chi affitta privatamente appartamenti e stanze. C'è ancora chi spara alto, sperando di trovare chi paghi più di 1.000 euro per una notte in un mini appartamento in centro. L'altissimo numero di affitti brevi disponibile non è comunque sufficiente a colmare la domanda. Anche per questo Federalberghi chiede più hotel di fascia medio-alta, di cui la città è carente. Più di 14.000 posti letto in provincia di Trieste, questo ovviamente spalmato sul sistema ricettivo triestino. Sì, oggi consideriamo che l'aspetto alberghiero puro è più o meno un terzo dell'offerta ricettiva e quindi nella necessità di attrarre grandi eventi o ospitare convegni di un certo profilo che ovviamente il nostro Generali Convention Center può ospitare, sicuramente Trieste ha bisogno di un aumento dei posti letto alberghieri, di posti letto di qualità. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12:45 minuti, uno sguardo al meteo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 17,5 gradi, Udine e Gorizia 17, Pordenone 16,5, Tolmezzo e Tarvisio 13,5 gradi, Forni di Sopra 13, Piancavallo 12,5, Sappada 11, Monte Lussari 11,5, Monte Zoncolan 10, Grado 17, Alignano invece 16 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA, cielo variabile sulla zona montana specie occidentale, nel pomeriggio saranno possibili locali piogge o rovesci sparsi, in serata possibile borino a Trieste. Ad Azzano Decimo, nella seconda edizione del Festival Che Cura, si parla di gentilezza in tutte le sue sfumature e in particolare nell'approccio quotidiano alle persone fragili e ai caregiver. Giulia Agostinelli, psicologa che opera al CRO di Aviano, ci spiega in che modo la gentilezza può fare la differenza nella cura, mentre Valentina Costa, coordinatrice del nucleo Alzheimer della ASP Umberto I, parla dell'esperienza del progetto ARIA. La gentilezza è semplicemente lo strumento con cui si può entrare in relazione con la persona e se non si entra in relazione non si colgono i bisogni, le necessità e non si offre quella cura alla persona e si rischia di curare solo la patologia. Il progetto ARIA in cosa consiste? Il progetto ARIA nasce nel 2022 e permette alla casa di riposo, alle maestranze all'interno della casa di riposo, di uscire nel territorio dalle famiglie che hanno a domicilio delle persone affette da demenze e aiutarle con consigli pratici, aiutare a fare un bagno, aiutarli a dare indicazioni su come posizionare la persona, come movimentarla in caso di cadute, per prevenire le cadute, per il benessere a domicilio. Anche gli psicologi sono molto importanti, cioè il sostegno psicologico e l'ascolto è la prima cosa, il primo passo importante per aprirsi al territorio. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione Light Up for PANS per la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PANS-PANDAS. Il Palazzo Urban Center delle Imprese sarà illuminato di verde. PANS, sindrome neuropsichiatrica pediatrica d'esordio acuto, e PANDAS, disturbo neuropsichiatrico autoimmune pediatrico associato a infezioni da streptococco, sono condizioni mediche trascurate che hanno un impatto devastante su individui, famiglie, amici. Spesso non vengono riconosciute e possono richiedere anni e numerose visite mediche per ottenere una diagnosi corretta. Nuova serata della 44esima edizione del Festival del Cinema Muto di Pordenone. Il programma propone l'arte comico-malinconica di Harry Langdon e Charlie Chaplin su un tema molto attuale, la guerra, con due film, Soldier Man del 1928 di Langdon e Shoulders Arms di Charlotte Soldato 1918 di Chaplin. In particolare il secondo è uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. La pellicola è stata restaurata dal MoMA, il Museo di Arti Moderne di New York, con una meticolosa ricostruzione che permette di apprezzare appieno la straordinaria prova di Chaplin. Shoulders Arms fu girato con la guerra in corso, la prima si tenne il 20 ottobre 1918, in quell'anno fu il film più visto della stagione. Ci racconta di più di questa pietra miliare della storia del cinema Clément Laffy, archivista e collaboratore del festival. Shoulder Arms è stato girato con due cineprese, da cui sono stati fatti due negativi, quindi quattro negativi in totale per le due cineprese. Il negativo A, il cosiddetto negativo A, corrisponde alla versione migliore voluta da Chaplin per il mercato statunitense. E di questo film, di questa versione, esistono in realtà pochissime copie al mondo. Dal 2020-2021 c'è stato un lavoro molto importante di ricerca di queste copie che ha condotto poi alla versione restaurata dal MoMA. Che importanza invece ha avuto questo film muto in quell'epoca, in quel 1918? Il film esce messi nelle sale in America a 3 settimane dall'armistizio, dalla fine della guerra. È un film e una commedia sulla guerra che esce durante il periodo bellico. Lo stesso Chaplin aveva dei dubbi sulla possibilità di far ridere su un tema così drammatico. In realtà il genio di Chaplin in questo caso è stato effettivamente di parlare in modo frontale e diretto della guerra, quindi del fango, della paura, delle pessime condizioni in cui vivevano i soldati all'epoca, ma di riuscire con sottilezza a far ridere e a prendere in qualche modo in giro questa situazione con anche una certa delicatezza. Il film fu un successo quasi immediato sia in America che all'estero ed è rimasto come uno dei film più importanti di Charlie Chaplin. Alcuni appuntamenti: costruire il futuro della zona montana del Friuli occidentale insieme alle sue comunità e attraverso la cooperazione. Nuova tappa del progetto di Coop Valli di Conf Cooperative Pordenone sulle cooperative di comunità nelle quali associandosi i residenti rispondono a varie esigenze di vita quotidiana, dalla gestione del negozio di generi alimentari all'accoglienza dei turisti. Dopo la presentazione a Barcis delle scorse settimane, tocca ora a Valmeduna e Valtramontina. L'appuntamento a Meduno alle 15.30 in Palazzo Colossis, sede della comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali. Dopo l'anteprima regionale arriva in sala al Visionario di Udine La ragazza del coro, titolo d'esordio della regista Urška Djukić, girato principalmente a Cividale del Friuli e candidato dalla Slovenia per la selezione degli Oscar 2026. Protagonista è Lucia, una ragazzina dall'animo particolarmente sensibile che canta nel coro di una scuola cattolica. La ragazza del coro è una produzione slovena con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission, Promoturismo FVG e del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, e distribuito in Italia dalla friulana Tucker Film. E si parlerà di canzoni censurate dal 1959 ad oggi per motivi morali, politici o religiosi, anche se la censura è formalmente vietata dalla Costituzione. Tra i casi più noti, Dio è morto, dei Nomadi e Se io fossi Dio di Giorgio Gaber. Con Domenico Gavella, l'appuntamento al Circolo Libertario Emiliano Zapata di via Ungaresca a Pordenone alle 20.45. Le strade di Teix da Manius a oggi è il titolo dell'incontro finissage della mostra allestita a Palazzo del Fumetto di Pordenone, che terminerà domenica. L'incontro racconta con diversi esperti gli ultimi 3 decenni, ma anche qualcosa del futuro del più longevo e amato personaggio del fumetto italiano, protagonista del testamento artistico di Manius. Si celebra con un evento il maestoso lavoro al quale dedicò gli ultimi 7 anni di vita, il famoso Teixone di Manius dal titolo La Valle del Terrore, per la prima volta esposto in sequenza integrale con tutte le sue 224 tavole originali al Palazzo del Fumetto, auditorium del PAF di Pordenone alle 20.30. Luisa Donini, medico-psichiatra, parlerà di come sentirsi al sicuro sia una priorità e di teoria polivagale alla Galleria dell'Accademia Città di Udine di via Anton Lazzaro Moro alle 17.00. I libri: Giovanni Curatola, professore ordinario di archeologia e storia dell'arte musulmana dell'Università di Udine, presenta Minima Mediterranea, 100 pensieri tra le rive delle arti islamiche, all'ex tipografia Savio di Pordenone alle 18.00. Per romance d'autore, Antonella Sbuels dialoga con gli studenti del polo liceale di Gorizia sul suo ultimo libro Il movimento del volo, centro culturale Casa Candussi di Romance di Sonzo alle 18.00. E L'ultima falsità di Diego Marani, Nave di Teseo Editore, sarà presentato alle 18 all'Abbazia di Rosazzo nell'ambito del calendario della 10ª edizione della rassegna I colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga. Per il libro delle 18.03, Mimmo San Martino con il suo Nostra Signora dei Burroni e delle Mosche al Kulturni Dom di Gorizia alle 18.03. Siamo in conclusione. Lo sport, il basket, con il campionato di A2, la sconfitta casalinga di ieri sera per Gesteco Cividale, battuta da Rieti per 84-75, di vario fisico prima ancora che tecnico, quello visto sul parquet dei Ducali messi in scacco dal roster laziale disegnato dall'udinese Franco Ciani, e nel break decisivo nel secondo periodo della serata fenomenale di un altro friulano, Fabio Mian, 19 punti, quasi tutti di fila. Nella ripresa per i gialloblu Redivo ne mette 5, ma Marietti controlla poi il sussulto fino a un insperato -6 che fa sperare nell'ennesima rimonta. Marietti non si fa spaventare e riesce a mettere l'ipoteca sulla partita. Domenica trasferta a Forlì, ma sentiamo il commento di coach Pillastrini a fine partita. Noi non abbiamo ancora un sistema rodato al 100%. E la vittoria della Supercoppa da questo punto di vista ci ha un po' illuso, no? Abbiamo vinto la Supercoppa prendendo 15 rimbalzi, una partita mi sembra 23 rimbalzi più degli altri. È ovvio che questo senza Freeman non può succedere, può succedere con Freeman, però possiamo fare meglio. E questa è una cosa che deve essere una nostra forza. Cioè, non abbiamo giocatori facilitatori del gioco come Miani, come Dell'Agnello, come Lamb, ma abbiamo giocatori diversi. Quindi giocare bene come l'anno scorso sarà difficile. Possiamo però prendere il 20 rimbalzi più degli altri, abbiamo fatto il Supercoppa, possiamo arrivare. E quella è una strada che dobbiamo percorrere. Però io non voglio rinunciare al fatto di giocare bene, perché Dell'Agnello e Miani, per fare due esempi, il primo anno non erano quelli del terzo anno, nel fare giocare bene la squadra. Quindi io sono convinto che i nostri ragazzi, che adesso occupano quei ruoli lì, fanno un po' più fatica perché hanno caratteristiche un po' diverse, però arriveranno a essere con una fisicità, arriveranno a essere quello con una fisicità completamente diversa. In regia Caterina Cabrelli, Mauro Cumine, Dario Nardini. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Andrei Marusci e Cerita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.